Letture di Radio 24. Verità o fiction? La cronaca nera è diventata negli anni un racconto con dovizie di particolari ricostruiti in televisione da attori e interpreti. Siamo ancora in grado di distinguere verità e finzione quando si parla di morti e omicidi? Il film sull'omicidio di Meredith pone un forte accento su questa distinzione sempre più complicata. La scena è questa. La ragazza ha la bocca pietrificata in un grido. Addosso a lei si abbarbicano due corpi di maschi. No, tre. C'è una donna e c'è sangue. Tanto sangue. Non si capisce bene, eppure si capisce tutto. È il trailer di CSI? No, è quello di Poliziotti a Miami? No, è il canale dei delitti di Sky? No, è il programma sugli amori criminali? No, è l'ultimo film di Tarantino? No, è il nuovo video del famoso gruppo rock? Ah, ecco. È il nuovo film sulla morte di Meredith Kercher, la studentessa inglese assassinata a Perugia. Chi è in grado oggi di distinguere in un'immagine la verità dalla fiction? Chi riesce a separare il sangue vero, quello che cola da carne viva, e il sangue fittizio ripreso dall'inquadratura che suscita il massimo orrore possibile? Il film sul delitto di Perugia, Amanda Knox, Murder on Trial in Italy, in onda su Lifetime, ha visto le famiglie della vittima e dei presunti carnefici trovarsi per una volta dalla stessa parte, chiedendo con fermezza la censura. Ma la questione che il film su Meredith ci pone è differente. Non si tratta, secondo me, di stabilire se è degno e permesso trasformare in fiction una morte vera. Si tratta di interrogarci sul modo in cui noi lettori e noi autori, ci siamo abituati a parlare di delitti. La cronaca nera è nata con i giornali e ne ha sempre costituito una buona fonte di reddito. I media e la televisione prima di tutto, ma anche adesso la rete, hanno ripetuto le modalità della cronaca nera, ma ci hanno aggiunto la specificità dei mezzi. E il risultato è che ormai si parla dei delitti veri con gli strumenti della fiction. La storia viene raccontata con clip recitate da attori. Ci sono voci fuori campo e frasi virgolettate che invadono lo schermo. Ci sono ricostruzioni e storyboard. Per chi guarda, per chi legge, è impossibile decidere se il fatto sia vero o inventato. Dunque, per la proprietà transitiva, vale anche l'inverso, ovvero, quando andiamo al cinema o guardiamo una fiction o leggiamo un romanzo, ci risulta impossibile decidere se il fatto sia vero o inventato. Come capì McLuhan mezzo secolo fa, il mezzo è il messaggio. Quello che si comunica è il modo e non il contenuto. Se il modo è lo stesso per la verità e per la finzione, finzione e verità non esistono più. Tutto è un'unica melassa vischiosa. Come il sangue della ragazza Meredith, innocente, uccisa 1000 volte per finta e una sola volta per davvero. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il film su Meredith e Amanda e i rischi della fiction, di Antonella Boralevi, dal Messaggero di mercoledì 23 febbraio. Letture di Radio 24. A Los Angeles ci sono 3.000 saloni di manicure, 1.000 autolavaggi, ma soltanto 200 librerie. L'espansione dell'editoria elettronica e dei negozi virtuali sembra stia mettendo in ginocchio per sempre le librerie tradizionali. Un fenomeno di passaggio, o la carta sparirà dagli scaffali insieme a biblioteche e librerie? Nella città di Los Angeles, 4 milioni di abitanti se non si contano le periferie, ci sono 3.000 saloni per manicure, 1.000 autolavaggi e un totale complessivo di 20 librerie. Una media di una per 200.000 abitanti, se si esclude un'altra quindicina di librerie specializzate e quelle dei musei e delle università. Una media destinata a scendere ancora, perché le librerie ormai stanno chiudendo una dopo l'altra. Ultime della lista, quelle della catena Borders, finita in bancarotta il mese scorso. Mentre si discute dell'imminente estinzione del libro, quello stampato su carta, molti non si sono accorti, infatti, che sono le librerie ad essere ormai quasi del tutto estinte negli Stati Uniti. Del resto, non ci si può stupire. Proprio a fine gennaio, Amazon.com, il colosso dell'e-commerce nato nel 1994 come prima libreria virtuale del mondo, ha annunciato che per la prima volta nella storia aziendale le vendite di libri elettronici hanno superato le vendite di libri cartacei. Nell'ultima settimana di gennaio, per ogni 100 libri di carta, ne ha venduti 115 in formato elettronico. Il business dei libri elettronici ha intanto superato complessivamente il miliardo di dollari nel 2010 ed è destinato a crescere in modo esponenziale con l'apertura di nuovi negozi virtuali di libri digitali anche su Google, eBooks, e su iTunes, iBook Store. Oggi le vendite di libri digitali ammontano al 4-5% del totale, ma la percentuale sta crescendo a vista d'occhio. Il dilagare del libro elettronico è tale che oggi ormai anche le biblioteche pubbliche prestano i libri per via digitale direttamente al computer o agli e-book di chi ha la tessera, e l'iPhone ha sviluppato una semplice applicazione, la Overdrive Media Console, che consente di scaricare il libro a prestito anche sul telefonino o sull'iPad. I consumatori americani, insomma, vanno pazzi per i libri digitali. La progressiva scomparsa delle librerie, infatti, non riflette la perdita di appetito della popolazione americana per la lettura, ma l'aumento della fame di libro elettronico. Le vendite complessive di libri continuano infatti a restare stabili nonostante la rapida scomparsa di punti vendita tradizionali su tutto il territorio nazionale. La sostituzione della libreria tradizionale con la libreria virtuale genera un risparmio sociale. Ciò non significa che le librerie spariranno completamente, ma diventeranno luoghi per collezionisti o per quella ristretta categoria di consumatori disposta a pagare di più per un libro, pur di poter vivere l'esperienza unica di una libreria, il suo profumo d'inchiostro, le pile di libri in bella mostra, il piacere di sfogliare un volume, il servizio fornito da commessi informati e competenti, la gioia di scoprire per caso nuovi autori. Ma la massa di consumatori si sposterà interamente su internet, dove i prezzi sono così bassi che nessuna libreria può competere, nemmeno le catene come Borders, con il caffè e i divani per la comodità dei clienti. Il giurista Richard Posner è convinto anche che le librerie virtuali, col tempo, impareranno a raccogliere, organizzare, gestire e distribuire informazioni e replicare quindi l'esperienza della libreria fisica, inclusa la gioia di imbattersi per caso in un nuovo autore. Ci vorrà ancora qualche anno, dopodiché il fato delle librerie potrebbe essere segnato per sempre. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Librerie statunitensi in via d'estinzione di Daniela Roveda dal Sole 24 Ore di mercoledì 23 febbraio. In origine venivano definiti troll quei soggetti che su blog, forum e social network interagiscono con gli altri utenti tramite messaggi provocatori, irritanti, fuori tema o semplicemente senza senso, con l'obiettivo di disturbare la comunicazione e fomentare gli animi. Una pratica che pare stia diventando una vera e propria professione per alcuni dipendenti dei governi che spingono la disinformazia. Internet, si dice, è un medium più democratico di quelli tradizionali, perché non può essere usato come strumento di manipolazione dall'alto. Le opinioni si formano liberamente attraverso un dibattito in cui tutti possono prendere la parola per confrontarsi alla pari. Ma le cose non vanno sempre così. Lo sa bene Georges Monbiot, blogger e firma del Guardian, impegnato in una crociata personale contro le pratiche di disinformazione messe in atto da governi e corporation per inquinare i dibattiti che si svolgono su forum, mailing list e social network fra cittadini, consumatori e utenti. La tecnica più in voga, usata fra gli altri dal governo cinese per attaccare i blogger dissidenti e dall'industria del tabacco per screditare le campagne contro i danni del fumo passivo, consiste nell'arruolare squadre di agenti provocatori per far degenerare in rissa le discussioni, spargere false informazioni. Sembra tuttavia che queste tragedie stiano per compiere un salto di qualità. Un noto e prestigioso blog politico americano, il Daily Kos, scrive infatti di aver ottenuto da una gola profonda alcune mail, delle quali pubblica stralci, sottratte alla società H.B. Gary, che fornisce servizi a varie agenzie governative statunitensi, come la CIA e il Ministero della Difesa, dalle quali si scopre che l'azienda in questione sarebbe dotata di software di persona management, cioè di programmi che consentirebbero a un soggetto impegnato in una campagna di disinformazione di assumere contemporaneamente fino a 70 identità, profili di social network, account in forum, eccetera, gestendole in parallelo, il tutto senza che si possa scoprire chi tira i fili di queste marionette virtuali. È normale, si dirà. La disinformazia è antica come il potere, ma la rapidità con cui il potere ha saputo reinventarla nell'epoca di Internet suscita una certa rabbia. Bombardare le masse dall'alto con false informazioni non è bello, ma infiltrarsi in un ambiente dove la gente credeva di poter finalmente mettere liberamente a confronto le proprie opinioni è molto più vile e disgustoso. Avete ascoltato la lettura dell'articolo La disinformazia ai tempi del web. Identità multiple per depistare, di Carlo Formentini, dal Corriere della Sera di lunedì 28 febbraio.